TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. I diritti delle persone, cittadini e non cittadini, non sono più al centro dell'azione politica. È la denuncia della fiaccolata a cui alcune centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a Trieste per chiedere politiche rivolte ai bisogni della società e specialmente ai migranti. La nuova architettura dei porti italiani, una nuova società interamente pubblica, coordinerà i grandi investimenti. Si chiamerà Porti d'Italia S.p.A. e dovrà occuparsi anche dei molti e importanti progetti che riguardano Trieste e Monfalcone. Trieste, affollata di turisti, ha offerto ai visitatori forestieri, oltre ai suoi luoghi più notevoli come San Giusto, Miramare, Il Faro e Piazza dell'Unità, un altro classico che però investe la città solo di tanto in tanto, la Bora, e i turisti pare abbiano apprezzato anche quella. Domani l'Udinese gioca al Friuli contro la Lazio. Mister Runjic ha suonato la riscossa per la sua squadra dopo la batosta di Firenze. Domani non ci sarà lo squalificato Okoye. Nel mondo dello sport capitano gli errori, dobbiamo ridurli al minimo, ha detto poco fa l'allenatore. Buongiorno e buon Santo Stefano dalla testata giornalistica regionale, al microfono Antonio Cagliazza. A Trieste ieri sera diverse centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata Luce fra gli ultimi, un Natale in cammino, marcia organizzata con partenza ed arrivo a pochi passi dai luoghi simbolo della questione migrazione, vale a dire il Silos, Piazza Libertà, la stazione ferroviaria. Durante la marcia è stato letto il manifesto Prima le persone, una denuncia sull'abbandono dei più fragili, del paradosso di un territorio che si spopola ma respinge, di una società che rischia di perdere futuro e umanità. Partito da Largo Santos, il corteo si è diretto verso il centro per fare poi ritorno in Piazza Libertà. La Bora non ha permesso di accendere le fiammelle, un significato che per gli organizzatori ha suggerito che dovrebbe essere acceso ben altro. Sono i cuori che devono essere accesi per solidarizzare con le persone che stanno male, che fanno fatica a vivere e che sono dimenticati anche dalle istituzioni spesso. E credo che l'impegno, ognuno per conto proprio, deve essere individuato e deve essere stabilito proprio in base a quelle che sono le nostre caratteristiche di essere uomini, uomini capaci di solidarietà, capaci di stare accanto alle persone e a chi soffre. Queste le parole di Don Paolo Iannaccone del Centro Balducci. È di 30 la media di persone in arrivo al giorno, dati dell'ICS, numeri sempre secondo Schiavone, che divisi per i giorni feriali sono di 4 richieste al giorno. Qui si capisce qual è tutto il ridicolo, o meglio il tragico di questa situazione, cioè di una emergenza artificialmente costruita. Le persone sono in strada perché sono abbandonate per settimane e mesi, non perché la situazione non può essere gestita. Partire dalla coscienza individuale e mettere in discussione il nostro modello di vita, il pensiero dello scrittore e viandante Luigi Nacci, che ribadisce la questione di Trieste, terra di confine, che fu grande perché riuscì ad accogliere le diversità. Una città che è stata molto più grande di adesso e con persone che venivano da tutto il mondo ed era molto più ricca di adesso da tutti i punti di vista, e lo era perché apriva le porte, e noi abbiamo un po' dimenticato il fatto che siamo stati grandi perché ci siamo mescolati. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia. Trieste, il freddo e il turismo. Oggi la città è soleggiata, ma ieri e l'altro ieri ha offerto ai turisti, oltre alla sua Piazza dell'Unità e al Castello di Miramare, un altro classico famosissimo, la Bora. Con quanta soddisfazione per chi è arrivato da fuori, lo scopriamo adesso. È in calo rispetto ai giorni scorsi, ma ha ripulito il cielo della città. La Bora su Trieste è ancora sostenuta, dimezzata rispetto ai 120 km all'ora della vigilia, ma abbastanza forte per abbracciare i turisti, sempre più numerosi, che si incamminano nel centro e per farsi notare. Tanti, la maggioranza di quelli che muovono i primi passi in centro, sono italiani. Vengono da Padova, dalla vicina Cordenons, anche da Torino. Per loro il giro a Trieste è una toccata e fuga e il saluto della Bora fa quasi parte del pacchetto turistico. C'è chi, dopo averla studiata a scuola, è contento finalmente di conoscere, oltre alla città, anche il vento famoso, mentre chi viene dall'estero è meno sensibile, ma sopporta il fastidio di fronte a un Santo Stefano con una luce abbagliante, cielo limpido e una città in stato di grazia. Per loro impressionati, invece, i nativi, per loro la Bora è altro, già quella dei giorni scorsi si avvicinava di più. Intanto, tra il Molo Audace e Piazza Unità, il vento soffia anche le note di valzer viennesi suonate dagli altoparlanti. che rievocano il passato asburgico della città per accompagnare gruppi di turisti tedeschi e austriaci insieme a più attuali canti natalizi. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. E a proposito di Bora, vediamo com'è la situazione meteorologica al momento. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Ecco le temperature alle 11. A Trieste 8,5 gradi, vento da est-nord-est, Bora a 39 km orari di media, con raffiche che hanno raggiunto gli 85 km orari. Udine 9,5 gradi, Gorizia 9 gradi, Pordenone 8, Tolmezzo 2 gradi, Forni di sopra 1,5 gradi, Piancavallo 0,5 gradi, Tarvisio -0,5 gradi, Sappada -5 gradi, sullo Zoncolan -0,5 gradi, sul Lussari -3 gradi, a Grado 9, a Lignano 7. Le previsioni su oggi e sul fine settimana le sentiamo da Arturo Puccillo dell'Osservatorio Meteorologico Regionale dell'ARPA. La situazione meteorologica per questo fine settimana vedrà la rimonta di un'alta pressione del Mare del Nord verso l'arco alpino, quindi avremo tempo prevalentemente stabile, così anche i primi giorni della prossima settimana. Ancora un po' di bora nella giornata di sabato, specialmente sabato mattina, poi tenderà a cessare nel pomeriggio sulla costa e avremo cielo in genere sereno su tutta quanta la regione, salvo qualche foschio banco di nebbia in alcuni fondovalli, in particolare per Alpi Carniche e Tarvisiano. Temperature in aumento, specialmente nei valori massimi, con massime fino a 14 gradi in pianura intorno ai 12-13 lungo la costa, e temperature in aumento soprattutto in quota con valori di 5-6 gradi superiori rispetto a quelli odierni, per quanto riguarda in particolare le località sopra i 1000 metri. E per quanto concerne le temperature minime, si potrà manifestare qualche gelata locale in pianura. La giornata di domenica sarà simile a sabato, con temperature decisamente miti in montagna, salvo inversioni appunto nelle valli, gelate che si faranno un po' più diffuse in pianura, specialmente in assenza completa di vento, e temperature minime comunque sopra zero per quanto riguarda la costa, massime intorno ai 9-12 gradi. Avremo vento che tenderà a riposizionarsi da est-nord-est nel corso del pomeriggio, con intensità in genere moderata, forse a tratti sostenuta per quanto riguarda Trieste. Temperature in lieve calo in quota la prossima settimana, già dall'inizio, rimarranno però condizioni di tempo perfettamente stabile, accompagnato a tratti da ventilazione da nord-est. E ora parliamo della riforma dei porti italiani che è in arrivo. Nascerà una società a capitale completamente pubblico che coordinerà e gestirà i grandi investimenti previsti per gli scali di tutto il paese. Fra essi figurano anche i progetti di ampliamento delle banchine e delle aree del porto di Trieste. Una riforma il cui iter è appena avviato, ma che significherà inevitabili cambiamenti anche per lo scalo di Trieste, anche se ancora tutti da valutare. Prima di Natale il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla riforma dei porti, un provvedimento che il governo definisce strategico per il futuro della logistica e dell'economia marittima italiana, ma che trova sulle barricate l'opposizione. Al centro della riforma c'è la nascita di Porti d'Italia S.p.A., una nuova società pubblica, probabilmente con una partecipazione significativa da parte di RFI, che avrà il compito di coordinare l'intero sistema portuale nazionale, almeno per quello che riguarda i grandi investimenti. L'obiettivo è superare le frammentazioni, semplificare le procedure e rendere i porti italiani più competitivi nelle rotte del Mediterraneo ed Europa. La nuova società gestirà i grandi investimenti infrastrutturali e la promozione internazionale, mentre le autorità portuali manterranno la gestione operativa dei singoli scali. Il governo parla di una riforma attesa da anni. L'opposizione invece annuncia battaglia in Parlamento, dove l'atto governativo sarà calendarizzato non prima dell'estate. Per capire cosa cambierà per Trieste è presto. Lo scalo Giuliano era cresciuto sotto Zeno D'Agostino grazie alla sua capacità di muoversi rapidamente, soprattutto sulla parte logistica, ma è difficile pensare che con le ferrovie nel capitale di Porti d'Italia il modello non venga centralizzato. Dal punto di vista finanziario è da capire soprattutto cosa accadrà alla costruzione del molo ottavo, già finanziato con oltre 200 milioni dallo Stato. Non essendo però ancora stata bandita la gara, non si sa quando questi fondi saranno stanziati e soprattutto non c'è garanzia che l'opera diventi prioritaria per la nuova società che si occuperà proprio di investimenti del genere, ma su tutti i porti nazionali. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Notizia di cronaca, i carabinieri di Udine hanno arrestato 3 persone, 2 uomini di nazionalità tunisina di 44 e 26 anni e una donna polacca di 40 per una violenta rapina in centro città. La vittima, residente fuori regione, era stata avvicinata dai 3 soggetti col pretesto di una vendita di stupefacenti. Al rifiuto i 3 lo hanno spintonato facendolo cadere a terra e strappandogli dalle tasche 40 euro. L'uomo poi è stato dapprima percosso con un bastone e poi con dei coltelli. L'aggredito ha inseguito i malviventi fino a individuarne il rifugio in un'abitazione della periferia e ha allertato il 112. Sul posto sono giunte 2 pattuglie dei carabinieri che in poco tempo hanno bloccato i rapinatori. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare i 2 coltelli utilizzati per l'aggressione. I 3 soggetti sono stati condotti in carcere, 2 a Udine e la donna a Trieste. La giornata di Santo Stefano con i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine è una giornata come le altre per chi è abituato a lavorare 365 giorni l'anno. La prima chiamata della giornata per la squadra dei vigili del fuoco operativa a Udine nella giornata di Santo Stefano arriva poco dopo l'inizio del turno, alle 8 del mattino. Dopo il controllo di tutti i mezzi presenti in comando provinciale si parte. Un guasto di un allarme di una casa, i pompieri intervengono per staccarlo. L'APS, l'autopompa serbatoio, ovvero il mezzo che arriva sempre per primo sul posto perché aborda tutto il necessario per quasi ogni tipo di intervento, da lì si sposta di qualche chilometro, segnalato un decesso in un'abitazione, un 48enne che non si è presentato in ospedale per la dialisi. Un malore, presenti sul posto anche carabinieri. Messi in sicurezza gli impianti dell'abitazione, arriva la chiamata per il terzo intervento della mattinata, una porta da aprire. I proprietari di casa avevano lasciato le chiavi all'interno, oggi le ditte private sono chiuse. Cronaca di un'ordinaria mattinata per i vigili del fuoco di Udine. 70 interventi tra Natale e la vigilia in tutta la provincia, per lo più dovuti al vento. Tornati in comando, non si tira il fiato. Nuovo controllo dei mezzi, ci si addestra all'uso di divaricatori e cesoie. Dentro una APS ci sono centinaia di strumenti. Ciascun pompiere in turno deve sapere esattamente dove sono e come funzionano, tutti dal primo all'ultimo. In emergenza non si può improvvisare, dice il caposquadra Ivan Pischiutta. Tutti sanno fare tutto, ma ciascun pompiere può avere diverse specializzazioni. Nella squadra del mattino l'autista come specialità neve e ghiaccio, un fluviale, uno speleolpino fluviale e un direttore operazioni di spegnimento. Il turno finisce alle 20, ma potrebbe non finire alle 20. Sono tutti potenzialmente reperibili in caso di emergenza, in Italia o emergenza internazionale, arruolabili nella colonna mobile nazionale. Ogni pompiere ha in comando uno zaino con sacco a pelo e vestiti per 5 giorni. Se il dovere dovesse chiamare, si partirebbe subito, senza passare da casa. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E andiamo ora in montagna. Andrea Rinaldi ci racconta questa giornata sulle nevi di Forni di Sopra. Un panorama decisamente invernale è quello che si è presentato a Forni di Sopra nella giornata di Santo Stefano. I 20 centimetri di neve caduta ieri e il sole che oggi splende hanno disegnato un paesaggio ideale per i primi turisti che sono accorsi nella località dolomitica. Una precipitazione non sufficiente però ad aprire tutte le piste da discesa. Attualmente sono usufruibili il 23% di quelle esistenti grazie all'innevamento programmato, ma si lavora lacrimente per aumentarne il numero nei prossimi giorni. Limitazioni che però non hanno scoraggiato le centinaia di sciatori a scendere lungo il Vermost, dove sono in funzione le 2 omonime seggiovie 1 e 2. Buona affluenza anche sull'anello dello sci di fondo Tagliamento, 2,5 km di pista battuti nella notte e preparati dai volontari dell'Associazione Sportiva Fornese. Sul fronte delle prenotazioni alberghiere risultano tutti occupati fino all'Epifania i 600 posti negli hotel e già da questa mattina sono numerosi i proprietari delle seconde case che hanno aperto la propria abitazione per trascorrere le vacanze natalizie. Una località che offre diverse attività extra sci come pattinaggio sul ghiaccio, centro benessere e animazione con spettacoli per le famiglie nell'area d'Avost e nel centro. Funzionante anche il Fantasy Snow Park con slittine e gommoni per divertenti scivolate sulla neve. Con la recente nevicata partiranno anche le escursioni organizzate con ciaspe e guida al seguito, pensate per valorizzare il paesaggio invernale. Forni di Sopra, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dalle piste di sci ai celebri presepi di Poffabro, la località della Val Colvera che li offre esponendoli anche dietro le finestre delle abitazioni. Sono più di 500 i presepi artigianali che adornano i ballatoi, i cortili, le finestre di tutto il borgo. Si rinnova a Poffabro, in Val Colvera, la tradizionale esposizione delle natività che sono realizzate per lo più a mano e che poi gli abitanti allestiscono nelle vie un po' in ogni angolo. Sandro Rovedo, il sindaco di Frisanco, gli chiediamo com'è la partecipazione quest'anno e se c'è qualche novità per questo appuntamento che è tradizionale ma che sorprende sempre. Insomma, la magia di Poffabro si ripresenta quest'anno sempre con delle novità che hanno l'obiettivo di offrire al visitatore un'accoglienza come giusto che questo insomma trovi in questo nostro borgo. L'affluenza in queste settimane è stata molto importante, le giornate sono state giornate insomma tutte belle, quindi come oggi insomma è una giornata splendida, quindi una camminata per Poffabro è piacevole e insomma una giornata o almeno qualche ora insomma in tranquillità lungo le vie del borgo. Quest'anno anche con un trenino? Sì, abbiamo introdotto questa novità che è il trenino che collega Frisanco e Poffabro, che serve un po' per gestire la parte del traffico ma anche per portare i visitatori di Poffabro verso Frisanco a vedere la mostra che c'è al Palazzo Poignici e la mostra dell'Immagine Carlin, che è un gioiellino che ancora pochi conoscono ma che veramente merita essere vista. Consigliata anche una visita serale al calar del sole, qui le piccole opere d'arte illuminate danno veramente il meglio di sé. Poffabro, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo sport, il calcio, Udinese domani in campo al Friuli contro la Lazio, la partita comincerà alle 18, per prepararla al meglio e chiedere alla squadra un cambio di passo dopo la mazzata del 5-1 rimediato a Firenze, mister Runjajić da ieri sera ha imposto un mini ritiro. I 5 gol arrivati al Franchi contro la Fiorentina, ultima in classifica, sono rimasti sullo stomaco a tutto l'ambiente bianconero, a cominciare da Patron Pozzo. Pugno duro allora, perché perdere senza neanche provarci, sia pure rimanendo in 10 fin dai primi minuti, non fa parte del DNA di questa squadra. Niente sera di Natale in famiglia, tutti in ritiro per preparare la sfida contro la Lazio. Una decisione condivisa con gli atleti, spiega però mister Runjajić in conferenza stampa. Ci siamo riuniti con la squadra e abbiamo preso questa decisione andando in ritiro 2 giorni prima della gara. Non è una grande punizione. Volevamo sfruttare le festività per lavorare su determinati episodi. Anche in altri campionati, spiega Runjajić, è normale andare in ritiro 2 giorni prima. In più, tutti siamo coscienti di aver fatto a Firenze una brutta partita. Indisponibili Vakumbayo e Rui Modesto, impegnati con la Costa d'Avorio e con l'Angola nella Coppa d'Africa. Per chiarire i dubbi di formazione, l'allenamento di rifinitura pomeridiano. Il mister tedesco, davanti ai microfoni, non ha scoperto le carte. A Firenze ho fatto subentrare dei ragazzi e mi aspetto un contributo, ha detto Runjajić. Camara è un ragazzo d'esperienza, importante per noi, questo è fuori di dubbio, non so dirvi se sarà titolare. La Lazio, dal canto suo, non può venire a Udine a fare regali. I biancocelesti hanno 2 punti in più dell'Udinese nel gruppone di centroclassifica e hanno fatto 8 punti nelle ultime 5 partite. Anche gli uomini di Sarri lavorano sul campo sia a Natale sia a Santo Stefano e tra loro si contano diverse assenze. Emergenza soprattutto a centrocampo, con Rovella, Bašić e Guendouzi indisponibili, oltre a Dele Bashiru e Dia, a loro volta impegnati in Coppa d'Africa. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. La 58esima edizione del premio Stella di Natale, assegnato dall'associazione Pro Pordenone, a esserne insigniti quest'anno sono l'avvocata Maria Antonietta Bianchi Pitter, da sempre impegnata nel volontariato, Giovanna Durat, che segue il gruppo anziani di Tramonti, il gruppo missionario della parrocchia del Sacro Cuore di Pordenone per le sue attività di sviluppo nei paesi più poveri del mondo, Mihai Tudose, 29enne originario della Romania, volontario della Croce Rossa e donatore di sangue. È una menzione speciale alla memoria di Carlo Bellato, alle 17 nel Duomo Concattedrale di San Marco. A Villa Maninna, Passariano di Codroipo, c'è la Notte dei Confini, il grande evento che si svolgerà nelle piazze tra la villa e le sue esedre nell'ambito della mostra Confini da Gauguin a Hopper, che raccoglie 130 opere da 42 musei del mondo. Alla conclusione del normale orario d'apertura, la mostra continuerà ad essere visitabile senza prenotazione, con un biglietto a 7 euro anziché 15, dalle ore 18 alle ore 20. 22. In programma ci sono rinfreschi, spettacoli pirotecnici, la musica di Remo Anzovino, i saluti dell'assessore regionale alla cultura Mario Anzil e l'intervento del curatore della mostra Marco Goldin. La magia del Natale nelle voci dei Free Voices Show Choir che sentiamo cantare in sottofondo. Il concerto spettacolo intitolato La cena di Natale è organizzato dalle associazioni del dono col contributo del comune di Gradisca di Sonzo. La direzione artistica è di Manuela Marussi, gli adattamenti musicali di Gianni Del Zotto, le coreografie di Marco Ragamonti del Teatro Litta di Milano. I testi sono interpretati dall'attrice Paola Aiello. Accompagnano i Free Voices Laura Grandi al violino, Cristian Colusso alla batteria, Gaia Prato al basso e Karim Tavani alle chitarre. Un'occasione per stare insieme e festeggiare nel segno della solidarietà. Il ricavato sarà infatti devoluto in favore della popolazione alluvionata di Versa. L'appuntamento alle 18 nel nuovo teatro comunale di Gradisca. A Trieste oggi lo storico concerto di Natale della Cappella Civica che per la prima volta raddoppia. Il primo appuntamento alle 18 nella Cattedrale di San Giusto e il secondo il 5 gennaio alle 19 alla Chiesa della Beata Vergine del Soccorso. Scaletta divisa in tre parti, si inizia con alcuni brani tratti dai repertori di Perosi, Schnabel, Pachelbel, si prosegue poi con alcune proposte di musica per ottoni dal Rinascimento all'epoca contemporanea e si conclude con alcune delle più celebri e amate canzoni del repertorio natalizio. Appuntamento poi di fine anno col Galà dell'Operetta al Politeama Rossetti di Trieste, a dirigere la Friuli Venezia Giulia Orchestra, il maestro Romolo Gessi. Sul palcoscenico saliranno gli artisti impegnati da lungo tempo col sodalizio triestino dedicato alla piccola lirica, Andrea Binetti, Ilaria Zanetti, Marzia Postogna, Stefania Seculin, a cui si aggiungono il giovane tenore Francesco Scalas e le giovanissime Veronica Foia e Iana Rata, la prima ucraina, la seconda moldava. Sarà anche l'occasione per consegnare il 35esimo premio internazionale dell'operetta all'ungherese Bori Kallai, il sipario alle 18. Ora sono le 12:52 minuti e 20 secondi. Grazie a Caterina Cabrelli e a Mauro Ciccarelli per l'assistenza tecnica, a Zeno Duban per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio su questa frequenza col GR delle 18:30, l'orario dei giorni festivi. Vi invitiamo anche a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della redazione e sul sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Da Antonio Cagliazza, buona giornata di Santo Stefano e buon pomeriggio. A risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.